Non c'è niente di più divertente che commentare i giornali, ragazzi. Tra poco vi darò una notizia e vi chiederò di fare un titolo su questo. E poi il titolo ce lo mandate al 349-238-6666 via SMS, via WhatsApp. Ci dite come vi chiamate, da dove ci scrivete. E anche oggi a due di voi regaleremo due coppie di biglietti per domenica. Allora, intanto i titoli in questo martedì 21 marzo. Il Sole 24 Ore apre sulla Brexit al via dal 29 marzo. Mentre il Corriere della Sera, un sondaggio politico, i 5 Stelle staccano il PD, movimento al 32,3%, avanti di 5 punti sul Partito Democratico che paga l'effetto scissione. Per Repubblica è il secondo giorno consecutivo sul bonus mamma, regole confuse, ora è scontro tra INPS e Ministero. La Stampa invece, l'attualità internazionale, Trump, Russia, si muove l'FBI. Il Messaggero all'allarme all'Italia, senza accordo chiude, vertice su tagli ed esuberi, Calenda e Del Rio dicono la situazione è drammatica. E poi c'è la vicenda Fini che ritorna sui giornali per la casa Monte Carlo, la richiesta di arresto per il cognato Giancarlo Tugliani. Per La Verità, fiumi di denaro sporco per Fini, questo è il titolo nelle carte che dispongono la cattura del cognato, ci sono pesantissime accuse all'ex presidente della Camera. Il Giornale anche, Fini riciclatore seriale, accusa shock del giudice e Libero arrestano il cognato di Fini. Allora, queste alcune delle aperture, ne vedremo altre, ma non posso non buttarmi sulla polemica del giorno, che durerà un giorno e domani non ci sarà più, fortunatamente. La chiusura del programma televisivo di Paola Perego. Il programma è Parliamone Sabato, come racconta Renato Franco sul Corriere della Sera, pagina 48, da Parliamone Sabato a Non Parliamone Più. Il programma di Rai 1, condotto da Paola Perego, chiude causa fenomenale GAF, causa lista assurda, causa figuraccia inaudita. Forse sapete che cosa è successo, se non lo sapete lo riepilogo. Hanno fatto un dibattito sui motivi per cui scegliere una fidanzata dell'est da parte degli uomini. E quali sono questi motivi? Beh, alcuni perdonano il tradimento, sono sempre sexy, non usano tute e pigiamoni, sono disposte a far comandare il loro uomo, e via così con una serie di stereotipi dei peggiori sulle donne. Sono tutte bambe, ma dopo aver partorito recuperano un fisico marmoreo. Segue dibattito di almeno 20 minuti su questo tema. Scoppia la bufera e il programma viene chiuso. C'è un'intervista a Monica Maggioni, presidente della RAI, intervistata da Il Messaggero a pagina 9, da Barbara Yerkov, dice: la RAI sta cambiando, ora nessuno è intoccabile. Sabato abbiamo assistito su Rai 1 a 30 minuti di una cosa che era tutto meno che servizio pubblico. Cominciamo parlando della seduttività delle donne dell'est e domani toccherà alle geishe, poi alle immigrate. Che modo di raccontare il mondo è questo? Dove ci hanno portato i presunti gruppi etnici omogenei nella storia? Queste sono le domande che si pone la presidente della RAI per dire: ma si è passato il limite. Paola Perego non è certo la sola responsabile, non ha fatto bene il suo lavoro, per questo ne risponde lei, insieme agli altri con cui ha realizzato la trasmissione. Non posso accettare che i conduttori siano importanti solo quando le cose vanno bene, se invece fanno male passavano lì per caso. E tra l'altro, dice Monica Maggioni, di questo programma ci sarà una serissima riflessione interna alla RAI. Parla anche il direttore generale della RAI, Campo Dall'Orto, intervistato da Francesco Bei sulla Stampa, pagina 11. La rete si salva solo con la qualità, basta pressioni degli agenti. In questo caso l'agente in questione, Lucio Presta, è anche il marito di Paola Perego. E l'errore si è fermato prima, ho ripercorso tutta la catena di controllo e purtroppo ogni passaggio è stato rispettato, ma se vogliamo è ancora più grave, dice Campo Dall'Orto, perché chi doveva controllare ha dato il via libera. però la situazione pare sfuggita di mano, a mio modo di vedere, quando Gramellini sul Corriere della Sera fa il caffè su questo, e Mattia Feltri sulla Stampa fa il buongiorno su questo, e intervistano il sociologo Alberoni una pagina sul Giornale per raccontare delle ragazze in cerca di fortuna dall'est, come le italiane negli anni 50 partivano dal meridione. Cioè la situazione è talmente fuori controllo che, a mio modo di vedere, l'intervista definitiva è quella a Eva Enger, ex pornostar sul Giorno. Eva Enger, ungherese, dichiara: io dormo con il pigiama con gli orsacchiotti. E con questa chiudiamo tutto, non se ne parli più fino alla prossima polemica televisiva. Direi che la pietra tombale come parola su questa vicenda sono le parole di Eva Enger. Va bene, lasciamo questa polemica, arriviamo a qualcosa di un po' più popolare, che sicuramente interessa i milioni di italiani che ci stanno ascoltando, soprattutto se genitori con figli a scuola. Il dibattito riguarda la droga nelle classi e se sia legittimo o meno, e se sia giusto o meno, portare i cani antidroga nelle classi. Il Corriere della Sera discute proprio con questa domanda: cani antidroga nelle classi? Cioè è giusto fare i blitz per controllare? L'allarme del governo è questo: sono piazze di spaccio ormai le scuole, ma dai presidi ai genitori la lotta agli stupefacenti divide anche gli adulti. L'ultimo episodio è raccontato da Isabella Pinto, preside all'Istituto Magarotto per Sordi di Roma, che dice: certo, non lo faccio a cuor leggero, ma so che i ragazzi non mi amano, i genitori e i docenti mi apprezzano, ho dovuto chiamare i carabinieri perché i ragazzi arrivavano in classe già fumati. Non hanno trovato niente, ma spero sia servito da deterrente. E l'esperienza più desolante invece è raccontata a Ostia, in una scuola: mentre i cani antidroga erano dentro, dalle finestre volavano pezzi di roba, zainetti, pacchetti, aggeggi strani. Naturalmente il dilemma non colpisce solo chi lavora in una grande città. Per esempio, spiega Carlo Braga, dirigente dell'Istituto Salvemini di Casalecchio sul Reno, con le forze dell'ordine un accordo di collaborazione, purtroppo è una realtà conclamata che non si può fingere di non vedere. Insomma, in questa inchiesta interessante di Valentina Santarpia a pagina 21 del Corriere, il dibattito è proprio quello: cani antidroga nelle classi, è giusto oppure no? Ma siamo qui all'articolo che invece mi fa pensare della giornata, ed è tra l'altro l'articolo sul quale vi chiedo di partorire un titolo che mi dovete mandare al 349-238-6666 per vincere, aggiudicarsi due coppie di biglietti per venire domenica a vederci a Platone al Teatro Manzoni di Milano. Allora, sapete quanti sono i magistrati fuori ruolo perché distaccati e prestati ai palazzi come ambasciate, Corte Costituzionale, Quirinale, Giustizia Locale, Corti di Strasburgo, Eurojust, Europol, Olaf? E chi più ne ha più ne metta: 222 magistrati, per carità, lavorano, distaccati nelle istituzioni all'estero. Da Roma a New York, i 222 magistrati prestati ai palazzi. C'è un universo di toghe fuori ruolo. Si tratta di magistrati distaccati nei palazzi del governo, alla diretta dipendenza dei ministri, della presidenza del Consiglio, delle ambasciate, all'ONU, a New York. Dino Martirano sul Corriere della Sera racconta di tutti questi magistrati che ovviamente non fanno il lavoro proprio propriamente di magistrati. Sì, certo, si parla di magistrati in politica, ma in realtà sono ormai pochi quelli che sono in politica e mantengono anche l'aspettativa da magistrato. La Finocchiaro, per esempio, è in aspettativa dall'88. Mantiene il ruolo in magistratura. Ma il vero scandalo, tra l'altro, i numeri li ha chiesti Renato Brunetta al vicepresidente del CSM. Il Corriere li anticipa: da Roma a New York ci sono 222 magistrati prestati ai palazzi. Non è possibile una roba del genere, vergognatevi, cazzo. Alessandro Milan, o sciupa femmina dell'informazione. ma per favore, alle 7:35 minuti siamo qui. Allora, cari ascoltatori, per parlare di politica, la notizia forse più interessante è quella che dà l'apertura al Corriere della Sera. È un sondaggio di Nando Pagnoncelli, i sondaggi che ogni tanto vengono proposti. Beh, in questo sondaggio c'è da dire che il dato politicamente più rilevante è che i 5 Stelle non sono mai dati così in alto, sono al 32,3% davanti al PD di 5 punti. Sicuramente il Partito Democratico paga la scissione, anche se gli scissionisti, così come vengono definiti, MDP è fermo in questo sondaggio al 3%. Comunque i 5 Stelle mai così in alto staccano il PD di oltre 5 punti, c'è l'analisi di Nando Pagnoncelli a pagina 5 del Corriere. Dopo mesi di sostanziale stabilità negli orientamenti, il voto degli italiani, il sondaggio invece di oggi fa registrare alcuni cambiamenti di rilievo. Innanzitutto la flessione proprio del PD a seguito della scissione e poi la crescita del Movimento 5 Stelle. Questi dati più rilevanti. Per quel che riguarda le altre formazioni politiche, la Lega Nord è data al 12,8, la Forza Italia al 12,7, Fratelli d'Italia al 4,6, tra l'altro avremo ospite Giorgia Meloni più tardi alle 8:40 e poi appunto il dato sugli scissionisti MDP al 3,3%, Sinistra Italiana al 2,7%, questi partiti che raccolgono più voti secondo quello che è, ricordiamo, un sondaggio, ma oggi è il titolo principale del Corriere della Sera. Tra l'altro, secondo molti, il Partito Democratico sconta anche la vicenda Minzolini, il fatto del salvataggio al Senato del senatore di Forza Italia, grazie anche ad alcuni voti del PD. Oggi Liana Milella sul quotidiano Repubblica, pagina 13, torna sulla vicenda Minzolini per raccontare che Minzolini, come il Cavaliere, cioè quindi come Berlusconi, sconterà la pena ai servizi sociali. Dovrà scontare la pena anche se con affidamento ai servizi sociali, come ha fatto Berlusconi. Ma soprattutto Minzolini dovrebbe affrontare un nuovo voto del Senato sulla sua interdizione dai pubblici uffici che la Corte di Appello di Roma gli ha imposto il 27 ottobre del 2014. Se ricordate, come scrive Repubblica, Berlusconi decise di assistere gli anziani a Cesano Boscone, l'ultima parola spetta al Tribunale di Sorveglianza e solo dopo aver scontato i suoi 2 anni e 6 mesi si porrà il problema della pena accessoria dell'interdizione dei pubblici uffici per il senatore di Forza Italia. Invece ora voglio raccontare, rimanendo su Repubblica, una vicenda che di politico ha ben poco, o meglio, ha molto perché riguarda l'ex presidente del Consiglio Matteo Renzi, ma è più una storia di un pasticcio che coinvolge un deputato del PD, che coinvolge WhatsApp. Insomma, non so se avete memoria, ma qualche giorno fa era uscito sui giornali, ma anche sui social, era stata diffusa questa notizia, e cioè il cellulare di Matteo Renzi era finito in rete. Era finito in rete, quindi diciamo a conoscenza di più o meno tutti quelli che un po' sgamati andavano a cercarlo. Ebbene, oggi Repubblica con Tommaso Ciriaco a pagina 12 racconta e ricostruisce la motivazione per cui è finito in rete il cellulare di Renzi. È una motivazione che è un vero e proprio pasticcio combinato da un deputato. Si tratta di Andrea Manciulli, che è anche presidente della delegazione presso l'Assemblea parlamentare della NATO. Cosa ha voluto fare Manciulli? Ha voluto fare un gruppo su WhatsApp. Sapete quando si fanno quei gruppi in cui si coinvolgono le persone anche a loro insaputa, sicuramente, o meglio lo sanno quando si ritrovano nel gruppo e magari anche controvoglia. Ha creato un gruppo immaginando con 250 persone, politici, Renzi, Maria Elena Boschi, tutti del PD, soprattutto per farsi gli auguri di Natale. Solo che facendo questo gruppo, mettendo anche degli amici, non era un gruppo tra parlamentari, c'erano anche amici, altre persone, tutti potevano vedere il cellulare di tutti. E quindi il cellulare di Renzi di fatto è andato anche a persone che non erano colleghi parlamentari, colleghi di partito, anche ad altre persone. Da lì il disastro è fatto, è stato diffuso. Ma Tommaso Ciriaco ricostruisce che a un certo punto Matteo Renzi abbandona il gruppo su WhatsApp, abbandonato, Maria Elena Boschi abbandona perché capiscono che il loro cellulare è diventato materia sensibile, panico all'interno del gruppo. Cosa vuol dire? Renzi lascia la politica, Renzi lascia il PD? No, più che altro Lorenzo Guerini del PD, a un certo punto nel giorno di Santo Stefano spiega: carissimi, buon Santo Stefano, Matteo ha abbandonato la chat perché è successo che il suo cellulare è stato diffuso. E va bene, Renzi cambia il numero, finito online. Ecco, questa è la fine della storia. Renzi ha cambiato il numero di cellulare, quindi quello di prima buttatelo via, cari ascoltatori, se ve lo siete tenuti in memoria. La vicenda invece che riguarda Gianfranco Fini, ex presidente della Camera, è oggi ben evidenziata sui giornali, alcuni come La Verità, Libero, Il Giornale aprono su questa tematica. Ricorda la vecchia casa di Monte Carlo? E ora ci sono delle accuse precise, come racconta Giovanni Bianconi sul Corriere della Sera a pagina 9. Il giudice accusa Fini, i fratelli Tulliani erano suoi emissari. L'affare della casa di Monte Carlo, secondo il racconto dell'ex deputato di Alleanza Nazionale Amedeo La Boccetta, nacque tra il tavolo di un ristorante vicino al Pantheon e l'appartamento privato a Montecitorio dell'ex presidente della Camera Fini in un giorno del 2008. A sigillo delle esplicite richieste fatte dal cognato di Fini, Giancarlo Tulliani, che da ieri è latitante, al re delle slot machine Francesco Corallo. Nel corso di un pranzo, ha detto ai pubblici ministeri l'ex deputato La Boccetta, Giancarlo Tulliani, anche a nome di sua sorella Elisabetta e di Fini, informò Corallo e me che doveva aiutarli a comprare una casa a Monte Carlo. Dopo un attimo di stupore, Corallo gli disse che una cosa del genere dovevano chiedere direttamente agli interessati. Tulliani allora telefona a Fini e poco dopo andammo negli appartamenti della Camera. Eravamo Giancarlo Tulliani, Elisabetta, Fini, Corallo e io. Fini disse che lui ed Elisabetta desideravano una casa a Monte Carlo e aggiunse testualmente: siamo certi che vorrà aiutarci a esaudire questo nostro desiderio. E Corallo si dichiarò disponibile. Capite che questa è la versione di Amedeo La Boccetta, ma una versione molto pesante per l'ex presidente della Camera. Tra l'altro, per Giancarlo Tulliani, invece, come racconta Giacomo Amadori a pagina 3 della Verità, c'è il mandato d'arresto. È il cognato di Fini e si trova a Dubai. E tra l'altro La Verità scrive: e se per caso parla, puntini puntini, visto che potrebbe decidere di collaborare per evitare il carcere. E questo, scrive La Verità, tremano in molti. Questa parola criminale seriale, attribuita dal giudice al cognato di Fini, è anche a pagina 17 della Stampa. L'inchiesta per riciclaggio: Tulliani è irreperibile a Dubai. E l'ex ministro, secondo il GIP, dice, l'ex ministro cioè Fini, strano che non sapesse. Insomma, il vecchio mantra del non poteva non sapere. È un po' quello che accade tutti i giorni con Mauro Meazza: non può non sapere queste cose. Caro Mauro, tu sei un po' complice, secondo me, in questa situazione. Mauro, buongiorno. Ma come stai? Buongiorno, buongiorno. Non, pensavo anche oggi Peter mi mettesse questi ascoltatori che mi dileggiano. Non ce ne sono più. Invece hai provveduto, cioè, che ti dileggiano subito, ce ne sono tanti, però non. Subito accostandomi quindi a vicende giudiziarie. Bene, ne sono contento, dall'altro lavoro al mio avvocato, naturalmente, da cui riceverai notizie. Ottimo. Hai per caso dei voucher nel cassetto? No. Ci sono, secondo le stime del Sole 24 Ore, oggi trovi su norme e tributi, ce ne sarebbero una trentina di milioni, diciamo 35, di voucher acquistati e non utilizzati. Ma la notizia più curiosa, invito poi a leggere su norme e tributi, in modo naturalmente, come devi leggere? Norme e tributi religiosamente. Bravissimo, allora leggi religiosamente, perché il problema è che con il decreto legge di abolizione non ci sono più le modalità di comunicazione preventiva, le sanzioni, quindi non si sa bene che si può fare con questi voucher nel cassetto, e ognuno di noi ha un voucher nel cassetto, insomma, ce ne sono 35 milioni. Va bene, poi l'APE, io ho parlato anche ieri dell'APE addirittura in versi, non so neanche se te lo meriti. Sì. Comunque, l'APE, c'è stato ieri questo primo incontro con i sindacati, del governo e dei sindacati, e ce ne sarà un altro giovedì. Diciamo che la prossima potrebbe essere la settimana decisiva, però intanto si precisano dei dati, almeno per l'ape social si dovrebbe partire a maggio, così riferisce Davide Colombo. E poi, giusto per segnalare ancora da Norme Tributi, sai che oggi è martedì? Sì, condominio. Condominio, bravissimo. Una cosa che fa sempre molto discutere in condominio, i parcheggi, il parcheggio in cortile. Ecco, allora riepiloghiamo chi decide e quando, se ci vuole l'assemblea, che tipo di maggioranza, se per caso si volesse cambiare l'uso dei parcheggi in cortile, però non litigate per favore. Questo è molto altro, perché poi ti parliamo del progetto del nuovo stadio della Roma. Sì. È stato presentato, adesso si aspetta la decisione della giunta naturalmente, e poi ci sono le indicazioni della BCE sugli NPL. Sai cosa sono gli NPL? Non performing loans. Sono i crediti che non si riesce più a riscuotere, cosiddetti deteriorati. Allora, hanno dato le indicazioni alla BCE, ne riferiamo naturalmente in finanza e mercati. Partito con la meditazione di oggi, la qualità dell'aria è in miglioramento, ma i riscaldamenti continuano a essere un problema. Lo spiega Jacopo Giliberto, leggi su commenti e inchieste oggi sul Sole 24 Ore. E poi, guarda, molte altre cose ti vorrei dire, ma la chiudo qui perché posso partecipare alla gara per Platone? Come no? C'è un giudice a Berlino, sì, punto di domanda, non è un gran titolo, ma mi è venuto così. È un po' scopiazzato dal passato. Ma mi sembrava fosse già. Non è che mi regali un biglietto, no? Però se vuoi stare a casa, ma pagare comunque un biglietto, noi. Puoi offrire un biglietto a qualcuno. come il biglietto sospeso a Napoli. Guarda, ci penserò intanto che leggo a pagina 2 e 3 tutto quello che succede con la Brexit. Si parte il 29 marzo, in 2 anni l'Europa cambierà. E quindi, tutto ciò premesso, traffico! Alessandro Milan, il belli capelli dell'informazione. Allora, alle 7:48 minuti, ieri Repubblica ha denunciato il fatto che questo bonus mamma domani, cioè il contributo da 800 euro che la legge di bilancio ha destinato alle prime spese legate alla nascita di un bambino, di fatto non esiste, nel senso che le mamme o i papà che vanno a chiedere all'INPS si vedono rispondere che non ne sappiamo nulla. Ecco allora la puntata 2, se volete, bonus mamma, scontro tra INPS e Ministero. Pagina 10 di Repubblica, una lettera di Boeri, cioè presidente dell'INPS, al Ministero. Le regole sono poco chiare. Filippo Santelli racconta il ritardo che tutti volevano evitare, un ritardo per cui ora INPS e governo si rimpallano le responsabilità. A quasi 3 mesi dall'entrata in vigore non è ancora possibile fare domanda per il bonus mamma domani. Come denunciato da Repubblica, oggi l'INPS non ha predisposto la piattaforma per presentare la richiesta. Tempi tecnici per costruirla ci vogliono dai 2 ai 3 mesi. Tra l'altro, sotto questo articolo, Barbara Ardù riepiloga quali sono le spese più o meno, le spese stimate per un figlio. Nel primo anno si stima sui 7.000 euro. Per la verità, ieri avevo letto su un altro giornale che si può arrivare fino a 15.000 euro, poi uno dipende insomma che tipo di attrezzature compra, se di marca oppure no. Comunque, diciamo 7.000 euro, oggi dice Repubblica, per arrivare fino ai 20 anni di un figlio si spendono circa 140.000 euro. Allora, un articolo su tutti i giornali, troverete la spiegazione del perché il sindaco di Roma Virginia Raggi ha staccato 5 giorni per andare in vacanza, tra l'altro in giorni in cui a Roma in settimana si firmerà, poi si rinnoverà l'anniversario dei trattati di Roma, quindi un momento importante per la città europea oltre che capitale italiana. Raggi è partita perché su indicazione del medico deve staccare qualche giorno dopo 7 mesi di lavoro senza pausa, dopo il campanello d'allarme arrivato con un ricovero lampo all'ospedale San Filippo Neri lo scorso 24 febbraio. Virginia Raggi stacca 5 giorni da Roma per stress. Mentre se andiamo all'estero, molti giornali danno con ampio risalto la vicenda della Russia Connection. Perché? Perché ora l'FBI, per bocca del suo direttore James Comey, ha ammesso che c'è una indagine sui legami tra Trump e Mosca, e non solo, c'è stata l'autorizzazione del Dipartimento della Giustizia a fare un'indagine sui tentativi del governo russo di interferire nelle elezioni presidenziali del 2016. Un'indagine cominciata nel luglio 2016, un'indagine che si concentra sulla natura di qualsiasi tipo di legame tra individui associati a Trump e il governo russo. Ora, Guido Olimpio, a pagina 3 del Corriere della Sera, racconta che ci sono alcuni rapporti con gli oligarchi che fanno capire che c'è un asse tra Casa Bianca e Cremlino che può in qualche modo creare qualche sospetto attorno a Donald Trump. Alcuni collaboratori soprattutto sono nel mirino: Paul Manafort, Carter Page. Il primo è il manager della campagna di Trump a fine 2016, il secondo è indicato come consigliere. E allora a metà agosto il New York Times rivelò che c'erano presunti fondi russo-ucraini in favore di Manafort, che tiene duro qualche giorno, poi si dimette. E così anche per Page. Certo, non si va diretti a Donald Trump, per questo, dice Guido Olimpio, forse non rischia direttamente, però ci sono alcune ombre su alcuni uomini attorno a Donald Trump e rapporti con il Cremlino. Mentre ieri a Roma è stato dato il via libera all'accordo con la Libia, quell'accordo in cui ogni tanto ci fanno la lista della spesa e pretendono di avere e ottengono motovedette, ambulanze, radar, elicotteri. Questa volta hanno fatto una lista della spesa da 800 milioni dicendo dobbiamo controllare i flussi di migranti. L'hanno chiesto tante volte in passato, non hanno mai controllato i flussi di migranti, continuiamo a darglieli e nella speranza che prima o poi questo serva. L'accordo è fatto, racconta il Corriere della Sera con Fiorenza Sarzanini a pagina 13. La consegna delle prime motovedette al governo di Tripoli potrebbe avvenire entro un mese. Lo annuncia il ministro dell'Interno Marco Minniti. Si tratta di mezzi da restituire alla Libia, dice Minniti, mentre 90 marinai della Guardia Costiera Libica si sono addestrati a bordo della nave San Giorgio, ora sono all'ultimo step della loro formazione. E dunque l'accordo c'è. Sdegno anche invece per le scritte. Dopo la visita del Presidente della Repubblica Mattarella a Locri, le scritte contro Don Ciotti, definito sbirro, e anche più lavoro e meno sbirri. Ci sono polemiche, ovviamente, ci sono reazioni. Vi segnalo l'intervista al procuratore di Catanzaro, Nicola Gratteri, procuratore e anche scrittore, che viene intervistato da Liana Milella su Repubblica, pagina 3, e racconta la reazione a queste scritte. Ma siamo alla carta costa, dai, è l'articolo più utile scovato sui giornali. Siamo in conclusione. Scrive Libero nel mitico taccuino della veterinaria Giorgia Danesi, che mette a raffronto tutte le somiglianze tra noi e i maiali. E per esempio Lorenzo Nespoli, che mi sta in questo momento riprendendo, ha delle somiglianze caratteriali spiccate con questo tipo di suini. Eccolo qua il titolo che racchiude un po', insomma, siamo partiti dalla questione Paola Perego, le donne dell'est. Il titolo di Libero è straordinario: siamo tutti un po' maiali, ma chi se ne frega.